violenza inaudita nei confronti di chi è sceso in piazza. Nel senso, parliamo di 4 giorni, ma non si fermeranno certo qui, almeno fino alla grande manifestazione chiamata per venerdì. Stanno cambiando diverse carte in tavola rispetto quello che è stata la mobilitazione nei mesi precedenti e soprattutto nei primi 2 mesi, cioè quelli che hanno permesso di spazzare via o di illudersi di spazzare via i 40 anni di mondo Mubarak che hanno governato quel paese. Ovviamente non è stata così, la fiducia immensa che la popolazione egiziana ha dato alle forze armate, dandogli in mano le chiavi della transizione fino alle elezioni che in realtà dovevano esserci lunedì, non è andata come si aspettavano gli egiziani, come ovviamente ci immaginavamo noi. La repressione ha marciato a passo di carica come se non fosse cambiato nulla, tanto che le mobilitazioni di questi giorni, che poi sono scoppiate in questi violenti scontri che probabilmente non si fermeranno, sono partite proprio da una chiamata in piazza di chi non ha mai smesso di combattere in questi mesi contro l'esercito e contro la repressione che sta portando avanti attraverso i processi militari che vengono compiuti ai danni di lavoratori e di attivisti, tra cui anche dei famosi blogger di cui non ci va sempre di parlare, perché ovviamente non sono il centro della rivoluzione, sono semplicemente i nomi più noti e quindi intorno ai quali si crea più facilmente movimento. Insomma, contro i tribunali militari era stata chiamata la prima giornata di mobilitazione, giornata non è mai terminata perché ha tentato di riprendersi Tahrir ed è stata violentemente sgomberata con diversi morti, con molte persone che stanno perdendo soprattutto la vista, nel senso che colpiti agli occhi ripetutamente dai proiettili rivestiti in gomma. Quindi insomma una situazione di una violenza inaudita a 5 giorni ormai da quelle che dovevano essere l'inizio delle vere e proprie elezioni boicottate da buona parte delle organizzazioni nate da poco, da in questi ultimi mesi, e che hanno alimentato le battaglie non solo di Piazza Tahrir ma di anche tutte le altre città e zone del paese. Ci sono dei grandi assenti di cui parleremo con la persona che è al di là della linea telefonica, e sono gli Ikhwan, cioè i fratelli musulmani. Non è la prima volta che disertano la piazza, lo fecero anche quel 25 gennaio passato alla storia. Comunque per l'Egitto lo fecero dall'inizio, tentarono di tirarsi fuori da quello che stava accadendo a Tahrir, poi vista appunto anche la loro base giovanile così presente in piazza e visto quel che stava diventando Tahrir, hanno preso la palla al balzo e sono stati tra virgolette costretti a scendere in piazza e poi a tentare di monopolizzare la situazione soprattutto a livello elettorale. Io non so se è già in linea, perfetto, però io non lo sento, quindi magari pronto? Entra tu. Allora, eccolo, ce l'abbiamo. Ciao Anthony, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno. Allora, no, abbiamo cercato chiaramente di fornire un quadro di sintesi sugli ultimi accadimenti. Anthony, che la primavera araba egiziana non fosse terminata era praticamente chiaro a tutti, in particolar modo agli osservatori più attenti. Certo, il fatto che potesse scoppiare una sorta di seconda intifata proprio alla vigilia delle elezioni che in teoria avrebbero dovuto portare a un'accelerazione della conclusione della cosiddetta fase di transizione, non c'era proprio da aspettarselo, e chiaramente insomma gli scenari sono da questo punto di vista ora sì in continuo movimento e può accadere di tutto, no? Certo, sì, è naturale che queste manifestazioni degli ultimi 4 giorni hanno fatto un po' comprendere quanto in Egitto nelle ultime settimane ci sia stato e si sia prodotto un processo parallelo. Da una parte vi era tutta la storia, quello scenario, quel teatrino politico che appunto veniva spesso diffuso dai media mainstream, e quindi la bagarre, la competizione elettorale, la questione appunto delle alleanze che venivano appunto fatte e disfatte ogni 2-3 giorni praticamente dai maggiori partiti che si vogliono appunto contendere l'arena parlamentare. Da una parte questo, dall'altra però vi era appunto uno scenario più sotterraneo, uno scenario comunque mai sopito di malcontento che nei confronti dell'esercito, ma non solo, anche nei confronti della situazione economica e sociale del paese si è portato avanti nelle ultime settimane. Ne abbiamo già parlato appunto ai microfoni di questa radio, quindi nel senso è importante capire come in questo momento, in realtà, da venerdì ad oggi, questi due fenomeni siano in realtà entrati in collisione, ed è proprio per questo che non dobbiamo sorprenderci dal fatto che comunque siano scoppiati questi disordini, diciamo tra virgolette, a 5 giorni dal processo elettorale, perché in realtà questi disordini non tengono conto e non vogliono tener conto del processo elettorale che appunto si avvierà dal prossimo 28 novembre. Sono anzi i partiti e l'esercito che deve tenere in considerazione queste pressioni dalla piazza, e che ora devono fare i conti con appunto un calendario che in realtà non è quello stimato dalla piazza. Se vogliamo fare un attimo un passo indietro, diciamo che la scintilla di quanto prodotto, una scintilla diciamo di medio lungo periodo a livello politico, è stata la proposta fatta appunto dal governo egiziano, oggi dimissionato, di un documento, viene definito il documento Al-Selmi, perché Salim Al-Selmi è il vice premier in carica in Egitto, un documento che era stato proposto alle principali forze politiche egiziane lo scorso 1 novembre. Questo documento, una bozza di principi sovracostituzionali, era un documento abbastanza inquietante per quello che affermava. Vi erano appunto 22 articoli all'interno, una serie di principi fondamentali che avrebbero dovuto costituire una sorta di roadmap per le forze politiche che sarebbero state elette nel prossimo Parlamento egiziano per la costruzione di un nuovo testo costituzionale. E al di là di alcuni principi generali, insomma, abbastanza tradizionali all'interno delle costituzioni arabe, vi erano però 2 o 3 punti davvero inquietanti, soprattutto i cosiddetti articoli 8 e 9 che riguardavano le questioni militari, e questo ce la dice lunga anche su chi in realtà sia stato il vero promotore di questo documento Al-Selmi. Si parlava anzitutto di ratificare o comunque l'autonomia che l'esercito ha sempre avuto in Egitto, un'autonomia sia dal punto di vista politico, perché si affermava appunto la nascita o comunque la volontà di costruire un cosiddetto consiglio di difesa nazionale che avrebbe dovuto gestire qualsiasi tipo di questione militare. Quindi senza nessun tipo di autorizzazione o controllo da parte delle forze politiche egiziane. Dall'altra vi era anche un punto e una questione economica molto importante, ovvero si diceva appunto che tutte le spese militari inerenti, quindi il Consiglio Supremo delle Forze Armate, le forze di sicurezza, le forze di polizia, sarebbero stati inseriti all'interno della spesa nazionale egiziana come un'unica voce, senza poi specificare all'interno quali erano le spese. Questo naturalmente cosa significa? Significa che l'esercito aveva pieno potere discriminatorio, comunque un potere arbitrario sulla gestione dei soldi che gli venivano comunque consegnati. Sappiamo, e ne abbiamo spesso parlato, dei legami dell'esercito, dei fondi che l'esercito ottiene quotidianamente dalle potenze occidentali, in primis dagli Stati Uniti. Sappiamo della potenza economica che è anche gestita dall'esercito, alcuni parlano anche di un 20-25% dell'intero PIL egiziano che viene gestito in realtà da imprese, industrie nazionali a partecipazione statale che appunto sono sotto il controllo pieno dell'esercito. E sempre dal punto di vista economico, ricordiamo che l'esercito ancora oggi sfrutta la coscrizione militare per avere dei lavoratori in realtà che ha un costo praticamente misero. Quindi da una parte vi erano tutte queste questioni. Qual è stata la reazione delle forze politiche? E per il momento parliamo solo di forze politiche, non sociali. La reazione è stata una critica diciamo generale nei confronti del documento, ma inizialmente questa critica non era così, così aspra, così forte. In quel momento, diciamo durante le prime 2 settimane, a capeggiare la protesta contro questo documento erano appunto le forze di tendenza diciamo islamica, quindi Fratelli Musulmani in primis, ma anche movimenti salafiti e partiti islamisti. I Fratelli Musulmani, fino a quando si trattava di discutere o di contestare un progetto, una proposta come quella avanzata dal governo, partendo da questioni di principio, o meglio da una difesa della legalità e dello Stato di diritto, sono stati comunque protagonisti, ed infatti sono stati dei principali promotori della manifestazione di venerdì scorso, dal quale poi tutto è cominciato. In realtà da lì poi si è scatenato un meccanismo che è andato al di là delle intenzioni della Fratellanza musulmana e dei partiti islamisti, e lo si è visto bene perché in realtà i primi disordini sono cominciati venerdì scorso, quando dopo le 18, ovvero dopo che i fratelli musulmani avevano in maniera molto plateale deciso di ritirarsi dalla piazza perché avevano fatto il loro corteo. Quindi cosa è successo da lì? Ci sono stati appunto movimenti salafiti più radicali islamisti, ma assieme a questi vi era tutta una frangia di gruppi movimentisti che sono nati appunto nel post Mubarak e che hanno tenuto la piazza negli ultimi mesi, che hanno deciso di rimanere in piazza. Alcuni di questi, circa 250, tra le 250 e le 350 persone, sono rimaste in piazza per tutta la notte, hanno deciso di fare un sit-in, e dal sabato mattina è cominciata appunto l'azione provocatoria da parte delle forze militari, e quindi tutta la mattanza che poi appunto abbiamo conosciuto tramite appunto i media e internet. Le cose più come dire interessanti da questo punto di vista sono, almeno a mio avviso, quello che è accaduto da sabato diciamo verso l'ora di pranzo in poi, quando si è sparsa la notizia in Egitto, al Cairo, ma non solo, anche ad Alessandria, nella zona del canale di Suez, quando si è sparsa la voce che le forze militari, coadiuvate anche dalle forze di polizia, stavano colpendo in maniera indiscriminata tutti i manifestanti che erano appunto all'interno di Midan Tahrir, ma non solo, allora lì sono cominciate a scendere molte persone, molte più persone in piazza, hanno iniziato a riprendersi Midan Tahrir e gli altri spazi dove vi erano cortei e sit-in, e da lì è cominciata poi proprio lo scontro diretto tra forze armate e manifestanti, e la gente ha continuato a scendere in piazza, come è un po' ricorda quello che è avvenuto in realtà durante i primi giorni della mobilitazione di gennaio, che hanno poi portato alla caduta di Mubarak. La percezione è che l'esercito da questo punto di vista ormai ha perso qualsiasi tipo di legittimazione nei confronti del popolo egiziano, e anche su questo dovremmo fare un attimo una riflessione su come sono riusciti i militari ad erodere questa base di fiducia da gennaio ad oggi, perché ricordiamo tutti gli eventi che si sono prodotti appunto a Maspero, la morte di più di 20 manifestanti copti, ricordiamo tutti le leggi liberticide che comunque l'esercito aveva promosso per mano del governo per vietare le manifestazioni e i sit-in in piazza, e che in realtà non sono mai state rispettate dal popolo egiziano, dico per fortuna, e che quindi a poco hanno portato la popolazione egiziana a rendersi conto veramente che l'esercito non poteva scusate, assolutamente ergersi a garante dei valori diciamo della rivoluzione. Quello che è accaduto poi nelle ultime ore, ovvero ieri, è ancora più importante, perché davvero l'esercito in questo caso ha fatto dei passi indietro importanti, anche se non sufficienti per la piazza, perché appunto ha riconosciuto da una parte, naturalmente nel comunicato che Tantawi, il capo del Consiglio Supremo delle Forze Armate, ha fatto alle TV nazionali ieri sera verso le 7:30, naturalmente si ergeva a difensore dei rivoluzionari, diceva appunto che l'esercito non aveva mai sparato nemmeno un proiettile nei confronti dei manifestanti, cosa appunto ormai, come dire, una bugia che è stata evidenziata da tantissimi documenti che si trovano ancora oggi sulla rete. Quindi al di là di queste diciamo dichiarazioni di facciata, l'esercito però ha dovuto accettare le dimissioni del governo egiziano, ha dovuto anche fare un passo indietro sugli step che comunque la piazza criticava per quanto riguarda in riferimento al processo di transizione. Da una parte si è affermato che comunque ci saranno delle prossime elezioni presidenziali non più tardi del prossimo giugno 2012, e anche se appunto non ha definito e soprattutto ha deciso l'esercito di sospendere qualsiasi tipo di processo militare nei confronti dei civili, una dichiarazione importante soprattutto per quelle migliaia di persone che da gennaio a questa parte stanno ancora scontando delle pene e sono appunto giudicati e vengono giudicati quotidianamente dai tribunali militari. Certo è che per esempio in riferimento proprio a quest'ultimo punto ancora non si sa che fine faranno quelli che sono già in carcere, quindi vi è una sospensione diciamo di carattere giuridico per i prossimi arresti, ma non vi è appunto una definizione di quello che accadrà per coloro che sono ancora in carcere. Quindi questo dal punto di vista delle concessioni che vengono fatte. Ancora più importante poi la reazione della piazza a queste dichiarazioni fatte ieri sera, che invece è rimasta compatta, molto numerosa. Sembra davvero che oggi se prima il nemico era considerato Mubarak, Mubarak nello scorso gennaio fino all'11 febbraio quando è stato cacciato, oggi veramente il nemico, tra virgolette, di tutti è appunto l'esercito e la longa mano che lui ha, detiene sul potere politico. Interessante naturalmente anche l'atteggiamento poi compromissorio, comunque da sottolineare, l'atteggiamento compromissorio dei fratelli musulmani, perché quando gli è scappata di mano la situazione, quando tutto è ritornato alla piazza, i fratelli musulmani, dopo alcune prime dichiarazioni di sostegno ai martiri della rivoluzione e di critiche, di condanna nei confronti della repressione, della politica di repressione adottata dall'esercito, in realtà hanno deciso proprio lunedì di non aderire alla manifestazione che c'è stata ieri, una manifestazione partecipatissima e molto molto determinata ad ottenere gli obiettivi per i quali la piazza si era prefissata, che la piazza si era prefissata di ottenere. Quindi qui, da questo punto di vista, la Fratellanza Musulmana, come diceva prima appunto una compagna dai microfoni della radio, ha una volta ancora, diciamo, perso la propria battaglia, o meglio è stata scalzata nella leadership delle mobilitazioni da quei movimenti che in strada ci sono stati da prima dello scorso gennaio e che continuano ad esserci e a ottenere delle vittorie importanti. Naturalmente, per comprendere il movimento e l'atteggiamento dei fratelli musulmani, dobbiamo capire come questa formazione ormai si candida ad essere un partito di governo e sia a livello interno ma soprattutto a livello internazionale vuole mostrarsi come un partner affidabile, naturalmente il riferimento agli Stati Uniti e all'Europa è evidente. Non vogliono essere considerati dei capipopolo promotori di un processo rivoluzionario, e questo naturalmente a scapito del consenso che gli stessi fratelli musulmani stanno appunto perdendo in parte anche all'interno dell'Egitto, e lo si è visto proprio lunedì sera quando uno dei leader maggiori della Fratellanza, dopo vari comunicati ambigui che appunto prima dicevano di sostenere i manifestanti, poi che si sarebbero ritirati e che non avrebbero aderito alla manifestazione di martedì, quando questo grande leader è sceso in piazza Midan Tahrir è stato appunto veramente letteralmente cacciato dalla piazza dai manifestanti ed è dovuto tornarsene a casa. Quindi è sintomo anche di un malcontento nei confronti dell'atteggiamento ambiguo che i fratelli musulmani stanno avendo hanno avuto negli ultimi giorni. Senti una cosa, Anthony, dunque appunto tu hai fatto riferimento un po' allo scompaginamento che un po' tutte le forze, che tra l'altro si erano ben preparate soprattutto per l'inizio dell'appuntamento elettorale, elezioni che poi in Egitto insomma comunque si dovrebbero prolungare per un periodo abbastanza ampio, no? Visto che la procedura è piuttosto lunga e diversa da quella che conosciamo ad esempio da noi, lì per le elezioni dei due rami del Parlamento appunto i tempi sono più lunghi. E dicevo, in seguito a questo scompaginamento ti sei soffermato soprattutto su i partiti o quelle coalizioni che hanno risentito, diciamo, di quanto successo. Quali situazioni politiche invece, diciamo, non ne sono state travolte, o perlomeno non quanto ad esempio il Partito della Libertà e della Giustizia, o addirittura insomma i liberali, che già da prima comunque avevano comunque mostrato di volersi anche sedere al tavolo delle trattative anche per discutere il famoso documento dell'autorità militare? Sì, tutti i partiti maggioritari, naturalmente, o comunque quelli che pretendono di avere un più largo consenso in Egitto, sono stati colpiti da questa diciamo, diplomazia dei popoli, perché il blocco egiziano, che è una delle principali alleanze, non ha aderito sin dall'inizio alla manifestazione di venerdì scorso. L'alleanza democratica, appunto capeggiata dal Partito dei Fratelli Musulmani, appunto abbiamo detto adesso l'atteggiamento contraddittorio che ha avuto negli ultimi giorni. Diciamo che i partiti che invece escono vittoriosi, o comunque i movimenti politici, sono da una parte sicuramente i salafiti, questo è un dato di fatto, perché comunque i salafiti sono coloro che in maniera più determinata hanno aggredito hanno attaccato il comportamento dei militari prima di venerdì scorso e che sono rimasti in piazza sia venerdì che sabato che domenica che lunedì. Dall'altra però, e questo è ancora più interessante, tutti quei movimenti perché hanno deciso di boicottare il processo elettorale sin dallo scorso mese di appunto luglio, come per esempio i socialisti rivoluzionari, ma anche appunto il movimento 6 aprile, che alcuni hanno deciso di boicottare direttamente la tornata elettorale, altri invece hanno deciso proprio di non partecipare alle elezioni e di invece costituirsi a gruppo di garanzia che avrebbe monitorato la correttezza del processo di transizione. Questi movimenti, che alla fine, alla lunga, hanno avuto la meglio sulle strategie dei partiti più grandi, naturalmente ne escono vittoriosi. Il problema sarà da comprendere come in realtà questi partiti poi dopo ora cercheranno di sfruttare, come dire, quel capitale importante di consensi che la piazza comunque in questi giorni gli sta dando. E non credo, almeno da quello che conoscendo alcuni di loro, non credo che appunto cercheranno di capitalizzarla a livello elettorale, ma soprattutto con la costruzione di pratiche di mobilitazione ancora nei prossimi mesi, perché comunque va ricordato che in Egitto c'è una situazione economica e sociale che è esplosiva, ne abbiamo parlato spesso dai microfoni della radio, la situazione di povertà è estrema, vi è poi un problema di alloggi che comunque si sta manifestando sempre di più, l'ultimo 3 settimane fa in un quartiere a nord-est del Cairo dove appunto è stato occupato un comprensorio di 1200 appartamenti da inizialmente 200 persone che poi sono divenute più di 2000, quindi vi è una situazione sociale esplosiva alla quale comunque il governo provvisorio non aveva dato risposte e alla quale gli stessi partiti tradizionali non sanno dare risposte. Quindi questi movimenti sicuramente cercheranno di costruire delle basi importanti di mobilitazione e di auto-organizzazione durante i prossimi mesi, mantenendo un atteggiamento critico nei confronti dei partiti tradizionali. Tra l'altro un processo di allontanamento da parte dei movimenti salafiti, dei partiti salafiti, diciamo, rispetto invece ai Fratelli Musulmani, che era ormai percepibile da qualche mese, visto che, correggimi se sbaglio, inizialmente comunque vi era un'ipotesi anche di alleanza tra queste due componenti islamiche, diciamo. Sì, assolutamente. Se pensiamo all'Alleanza Democratica, era nata in realtà come appunto una coalizione di partiti principalmente di tendenza islamica, con poi altri partiti liberali che comunque sapevano di non poter arrivare a ottenere comunque il quorum per ottenere seggi in Parlamento, che quindi avevano deciso di schierarsi con il probabile vincitore. I partiti salafiti, dopo una prima fase di alleanza con i Fratelli Musulmani, hanno deciso poi dopo in realtà di smarcarsi, sia perché la fratellanza ha cercato di monopolizzare le liste le liste per la candidatura alle elezioni parlamentari, sia perché avevano compreso come in realtà in certe situazioni i Fratelli Musulmani comunque agissero senza nessun tipo di concertazione. Però una cosa tra virgolette hanno preso in prestito dall'atteggiamento della fratellanza: hanno deciso di rinunciare, almeno a livello teorico, alla violenza come strumento politico e di partecipare tra virgolette al processo elettorale, mantenendo comunque una forte criticità nei confronti dell'esercito e del processo di transizione. Naturalmente loro parlano anche di un rispetto del pluralismo politico, del pluralismo religioso, e anche qui vi sono differenti sfumature. Quello che è interessante è che veramente da venerdì vi era una convergenza di interessi tra movimenti di estrema sinistra e salafiti che appunto hanno deciso di, tra virgolette, deporre le armi tra di loro, per l'unico obiettivo in questo momento era quello di cacciare, tra virgolette, di allontanare i militari dal potere politico. È da vedere poi dopo come i salafiti e naturalmente come i partiti e i movimenti di sinistra poi dopo risolveranno quella differenza sostanziale che vi è tra di loro, non tanto nelle politiche economiche, perché da una parte anche gli stessi salafiti sono molto attenti ai problemi sociali che la società egiziana vive da 20 anni a questa parte, ma poi nella strumentalizzazione del fattore religioso, che comunque per i salafiti è uno strumento essenziale per ottenere consensi, e questo lo si vede appunto quotidianamente con le proposte che avanzano di fronte alle forze militari quasi in maniera provocatoria, ma anche a dimostrare alla popolazione che non hanno tralasciato e non vogliono dimenticare la loro eredità anche teorica. Quindi lì ci sarà prima o poi un confronto anche secondo me aspro tra salafiti e formazioni di sinistra, che per ora in realtà sono unite nella piazza contro il Consiglio Supremo delle forze armate. Diciamo che un po' ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo, sì. Senti, una domanda, sai un po' meglio, perché non riesco molto a trovare informazioni, in questi 5 giorni se si sta mobilitando qualcosa all'interno delle fabbriche, delle stesse fabbriche, insomma, che si sono fermate per giorni nelle gloriose settimane di gennaio e febbraio, quindi non so, nella zona di Mahalla, di Mansura o a Suez, insomma, se sai che livello di tensione si respira in questi giorni. Guarda, a Suez ieri proprio ho parlato con un compagno che si trova lì in Egitto, mi ha detto appunto che le mobilitazioni che si sono avute, che purtroppo non sono tanto mediatizzate, avevano una fortissima componente operaia, però non all'interno dei luoghi di lavoro per il momento. Ricordiamo appunto che Suez, ora non se ne parla mai, ma è stato veramente l'epicentro. Suez è la zona del Delta, ma la zona del Delta dove appunto ci sono le industrie di Mahalla el Kubra e le altre industrie del settore tessile, nel Delta vi è stata una fortissima accelerazione nei mesi di gennaio, febbraio, inizio marzo. A Suez in realtà si è continuato in un vero assedio fino appunto a poche settimane fa, ed è considerata anche dagli stessi egiziani una delle piazze più calde contro appunto per contestare il processo di cooptazione dei militari. Quindi in realtà lì la radicalità della protesta è sempre stata molto forte nell'ultimo anno. Per il momento, fino a ieri, non ho avuto notizia di scioperi all'interno dei luoghi di lavoro, ma di una fortissima componente operaia che è scesa in piazza contestando da una parte l'esercito, ma con una fortissima attenzione anche alle questioni sociali. Non dimentichiamo che ancora oggi non è stato cambiato la legge che appunto prevede un salario minimo da fame ai lavoratori egiziani, come invece molti lavoratori hanno chiesto negli ultimi mesi. Vi è solo appunto un fortissimo attivismo da parte di questi sindacati indipendenti, che però cercano comunque di smarcarsi, o meglio negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, prima della, appunto in vista della campagna elettorale, hanno deciso di smarcarsi da qualsiasi tipo di forza politica tradizionale, perché non volevano essere comunque strumentalizzati da un partito che magari avrebbe pure perso o comunque non avrebbe potuto supportarli poi nel medio lungo periodo, perché non vi era in realtà una progettualità comune, ma solo l'ipotesi di alleanze a livello contingente per ottenere voti per le prossime elezioni dal 28, che cominceranno il 28 novembre. Quindi da questo punto di vista è da monitorare poi in seguito che atteggiamento avranno i sindacati indipendenti, soprattutto nei confronti della piazza, e se continueranno, come hanno fatto in passato, ad associare rivendicazioni di carattere politico più ampie a rivendicazioni di carattere socio-economico. Senti, prima di salutarti, niente, ti do le ultime notizie. Dimmi che non ho visto. Che prima mi devo affacciare, apri. Purtroppo dico, le ultime notizie che arrivano dalla piazza, una è positiva, nel senso che il terzo ufficiale dell'esercito sembra essersi tolto i panni che vestiva e unito alla piazza, proprio sulla linea di Mohammed Mahmoud, quindi sulla strada che parte da piazza Tahrir. Invece una notizia che ci allarma un po' si aspettavano referti ospedalieri sui corpi dei troppi uccisi. Ci sono ben 21 morti, di cui è confermata insomma l'uccisione con proiettili da 9 mm e da 7,62, quindi insomma con l'uso di armi da fuoco spietato. Insomma, fino adesso non era stato ufficializzato, ovviamente è stato ieri negato da Tantawi reti unificate, ma insomma arrivano i primi 21 referti di autopsia che confermano insomma l'uccisione con colpi d'arma da fuoco. Vabbè. Sì, questa è una tragedia. Poi naturalmente, invece, in riferimento al primo punto, non dimentichiamo che comunque in Egitto vi è tutto un fenomeno di diserzione che è cominciato da dicembre del 2010 e che si è prolungato in realtà fino ad oggi. Quindi in realtà, quando parliamo della terza carica generale che appunto va dall'altra parte, riflette in realtà poi una grande componente della base dell'esercito che ha deciso e che è scesa in piazza nelle scorse, negli scorsi mesi a sostegno, sostenendo la popolazione e mettendosi contro anche le gerarchie militari. E per un militare di base, comunque per un soldato semplice, mettersi contro l'esercito, insomma, è davvero un rischio molto, molto grande, perché non si rischia solo appunto un'ammenda, ma si rischia il carcere, il tribunale militare, l'alto tradimento. Quindi vi è stato un fenomeno, ricordiamolo, che nei mesi di febbraio, fine gennaio, inizio febbraio, una serie di soldati che appunto poi hanno anche mediatizzato la loro protesta erano scesi al fianco dei manifestanti a Tahrir, e che poi successivamente sono stati arrestati dopo l'11 febbraio, quindi dopo la caduta di Mubarak, e per i quali ancora non si è fatta, tra virgolette, giustizia, perché molti di loro sono ancora in carcere. Nonostante questo, vi è ancora una fase, vi è ancora un fenomeno di diserzione, diciamo, da parte di molti militari. Quindi questo è anche sintomatico del consenso che il Consiglio Supremo sta perdendo, non solo verso appunto il popolo egiziano, ma anche più in generale all'interno della stessa base militare. Va bene, Anthony. Dunque, a chiudere, diciamo, le elezioni comunque rimangono confermate, il 28 sì, novembre inizieranno. Sì, ma in realtà molti movimenti vogliono che le elezioni continuino, eh? Cioè non vogliono la sospensione delle elezioni, perché temono in realtà che una situazione di stallo potrebbe comunque, tra virgolette, facilitare, agevolare i militari. Certo. Loro si sperano che appunto questo processo elettorale cominci e che però allo stesso tempo sia controllato e governato da un'autorità civili, per quanto poi tutti, insomma, non si illudono sulle aspettative, appunto, o meglio, la maggior parte dei movimenti che sono in piazza non si illudono sulle prospettive politiche portate avanti dal partito che poi obiettivamente sarà il vincitore delle elezioni, ovvero gli Ikhwan, i fratelli musulmani, attraverso il Partito Giustizia e Libertà. Quindi questo, diciamo, per loro è un, come dire, una fase di normalizzazione, almeno loro pensano, insomma, che sia importante per cercare in realtà di utilizzare gli strumenti della legalità per portare via e allontanare i militari. Poi naturalmente quanto sia veritiero e quanto sia possibile, questo sinceramente non lo so, insomma, mi sembra anche un po' difficile comunque. Certo, va bene, staremo a vedere. Per il momento grazie, ciao Anthony, grazie, grazie a presto. Grazie a tutti, ciao.